Buonasera, ben ritrovati a Sorci Verdi. I medici potranno segnalare all'autorità la presenza di stranieri non in regola nelle strutture sanitarie, questo grazie ad un emendamento della Lega Nord che va ad abrogare all'interno del testo sulla sicurezza il divieto di denunciare appunti clandestini alle autorità. Giro di vita necessario per contrastare l'immigrazione clandestina in Italia o provvedimento razzista e addirittura pericoloso per la salute pubblica come ha sostenuto l'opposizione? Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti in studio, Daniele Belotti, buonasera, consigliere regionale della Lega Nord, e Marcello Saponaro, consigliere regionale dei Verdi. Buonasera. Belotti ci spiega questa... Che finanziatore della trasmissione. Io sono qua a scrocco. È scritto anche sovraimpressione. Come quando vai a cena gratis. È contento. Contentissimo. Belotti ci spiega questa nuova deroga al divieto di segnalare i clandestini per il personale sanitario, nello specifico per i medici. Per quale motivo è stato introdotto, ricordiamo, con un emendamento che andava ad abrogare, a cassare il divieto esplicito? Sì, è un emendamento presentato dalla Lega Nord al Senato, la fattispecie primo firmatario è il senatore Mazzatorta, nonché sindaco di Chiari, quindi bresciano. Secondo noi questo emendamento ha una base ben chiara, che deve essere compresa bene. È finita la festa per i clandestini, è un segnale che si vuole cambiare atteggiamento verso l'immigrazione. Chi viene qua per lavorare ben venga, secondo le regole, chi viene qua violando la legge nostra, che non prevede che uno perché mette piede a Lampedusa o a Trieste se entra via terra o da qualsiasi altra parte è ben accetto. Così no, perché chi viene qua in modo clandestino non può pensare di avere tutti i diritti e nessun dovere. Ecco, ci sono anche clandestini che sono clandestini, nel senso che hanno le carte in regola, però sono qui a lavorare, penso per esempio alle badanti. Allora, è vero, ma bisogna anche comunque regolamentare la situazione. Non è possibile che in un paese nel 2009, un paese che si ritiene all'avanguardia il fatto di civiltà, ci sia e di organizzazione ci siano migliaia, centinaia di migliaia, sono addirittura milioni di cittadini di cui non si sa neanche chi sono, da dove vengono e dove hanno. Ecco, è una cosa situazione... assolutamente non più. Torniamo poi in seguito anche con il discorso del decreto flussi, se ci sarà un decreto del 2009. Saponaro, sempre per quanto riguarda questo provvedimento, l'opposizione è stata molto dura, l'ha bollato come provvedimento razzista, qualcuno ha detto un provvedimento inutile, qualcun altro ha detto addirittura dannoso, pericoloso per quella che è la salute pubblica di tutti gli italiani. Ha detto un amplissimo schieramento di forze, non solo politiche, a partire dai medici. L'Ordine dei Medici di Bergamo, l'Ordine dei Medici nazionale, le forze politiche che hanno subito all'interno della maggioranza questo emendamento della Lega Nord, perché qualcosa gli devono concedere nella propaganda, però si sono prodotte in tantissimi distinguo per differenziarsi da questo, e a cominciare dal Presidente della Camera Fini, che invece era un firmatario sulla nostra legge. È un provvedimento contrario all'etica del medico, contraria alla deontologia del medico, contrario al loro giuramento, perché la salute è un diritto universale che va garantito a tutti, basilarmente a tutti, persino ai criminali, dice la legge italiana e la legge degli Stati democratici. E qui arriva il terzo elemento di questo emendamento, che è dannoso, perché una persona clandestina, e clandestina significa le badanti, tantissime, i lavoratori dell'industria, dell'edilizia, tantissimi, tantissimi rumeni, la gran parte dei rumeni sono lì a lavorare, poi ci sono anche i criminali, come ci sono per qualsiasi etnia, e anche in misura variabile, però... Quando noi diciamo i clandestini, sono queste persone purtroppo sono più clandestini, sono purtroppo esattamente, e sono però queste le persone, paesi dell'Europa dell'Est, persone che sono diventati comunitari, e persone che sono qui a lavorare, e lo sapete voi benissimo perché adesso che siete al governo fate voi il decreto flussi, e queste persone se annusano, se sentono, se hanno il timore che possono essere denunciate perché hanno in corso una malattia, perché si fanno male, non vanno a pronto soccorso, o sono indotti, a non andare al pronto soccorso, e questo è il rischio anche per gli italiani, oltre che per la comunità che ospitiamo, quello del diffondersi della malattia. E questo non lo dice l'opposizione per fare opposizione politica, lo dicono innanzitutto i medici. Attenzione, perché questo è un provvedimento pericoloso, perché un focolaio di meningite è bene bloccarlo subito, è bene che vadano subito al pronto soccorso per farsi curare. Un focolaio di TBC è bene che bloccarlo subito, è bene non ampliare il business della medicina illegale clandestina che spesso gestiscono immigrati criminali e comunità straniere criminali. È il discorso che buonista che sentiamo mille volte. Non gli spacciatori, non le merde extracomunitarie clandestine, non gli islamici che rompono il cazzo nelle scuole e vorrebbero privarci dei nostri simboli, ma la nostra gente, la gente che come noi in Europa vuole essere se stessa, la gente che vuole e sostiene i popoli, la lotta dei popoli, la gente che è con noi.